Peccato. Peccato che noi a volte muoviamo i passi in cerca della felicità voltando la schiena, voltando le spalle a Dio. Pazzi, scusate, pazzi, pazzi. E difatti quando uno commette qualche crimine, qualche delitto, quante volte io ho visto il penitente dire: padre, ma sa che quando ho commesso quello sbaglio mi sarei buttato dalla finestra. Ah, sempre così. Quando noi muoviamo i passi in cerca della gioia, voltando le spalle a Dio e alla sua legge, siamo pazzi, perché andiamo in cerca della disperazione, della tristezza, della noia, del rigetto della vita. Chissà che pian piano, a forza di battere la testa contro i muri, non ci accorgiamo finalmente che dobbiamo dar ragione a Dio e alla sua legge. I comandamenti di Dio sono appena 10 quante le dita delle mani, appena 10 quante le dita dei nostri piedi, appena 10. Ma qual è quello stato civile che abbia appena 10 leggi, 10 comandi? Il codice italiano ne ha migliaia di leggi, migliaia. Dio, appena 10, come le dita delle mani con le quali lavoriamo, come le dita dei piedi, senza le quali dita, senza i quali piedi non potremmo muoverci, appena. Perché non diamo ragione ai 10 comandamenti di Dio? Sono i paracarri che ti preservano dal precipizio, ti salvano dai colpi di testa, dai colpi di testa. Ti salvano dalle pazzie, ti salvano dagli attentati alla tua vita. Quando noi ci mettiamo contro Dio, ci mettiamo contro la sorgente della vita. E quando mettiamo su di piedi la legge di Dio, non facciamo nessun danno a Dio, perché Dio è incorruttibile, infinito. Ma quanto danno facciamo a noi stessi? È andar contro il significato profondo della vita. Il nostro significato più profondo, non superficiale ma profondo, è quello di cercare una gioia sempre più intensa, sempre più profonda, sempre più alta, sempre più vasta, sempre più soddisfacente. E andiamo in cerca di peccati? Questa è una trappola. Il peccato è una trappola, è un inganno, è un trabocchetto. Il Dio, quando ha dettato i comandamenti, li ha dettati per il nostro bene. È un padre che dà degli ordini al figlio perché il figlio riesca nella vita, riesca. E chi sono le persone più riuscite, più ben riuscite nella vita? Abbiamo detto, i santi. Questi figli di Adamo e di Eva e figli della redenzione, tutti coloro che hanno cercato con ogni forza, con ogni sforzo, hanno cercato la gioia, quella vera, la gioia di Dio, dando fiducia a Dio e fiducia ai suoi comandamenti.